E dunque prove tecniche di trasmissione con elettrodo e controlli che andrà avanti sino alle 22:30. Ci sarà poi 25 o'clock con ospiti. www.ondarossa.info, sito già frequentato alla grande, devo dire, vi ringrazio per questo. Sul sito della radio ci sono le varie modalità di adesione per quanto riguarda la nostra vita e quindi modalità elettroniche e non per sottoscrivere a Radio Onda Rossa. Rapidissimi saluti, Maya che ci sta ascoltando in Umbria, un saluto da Angelina Waldes, Tiziano Farinacci di Pi Greco, Cecilia Miriadoli di Pindar. Di Pindar sta per uscire il nuovo lavoro. Ernesti Panico Brusati da Varese. Un saluto a Flavio Derbecante di Noise Cluster, Anna qui a Roma, Doriana Panico in quel di Taranto. A Firenze abbiamo Anton Zoviet di Omicidio, ormai una realtà consolidata nel panorama industrial. Carichissima, Venusi a Zozzetta Stramonio. Buonasera a Margherita Montoneri, a Valentina in Abruzzo. E poi Marco Mascieri di Progetto Sonoro, Francesco Cornello, Tabula Rasa in mezzo alle montagne a Cortina d'Ampezzo, Cristiano Bocci di Chemical Resistance e non solo, storico musicista della scena italiana. Abbiamo Giulia qui a Roma. Graditissimo come al solito, Like Awake, la storia ambient sempre qui dalla capitale. Alberto Cripper di MDMA. Unus Island dal Piemonte. Vado a salutare Mariano Anni Terri. E allora si va ad iniziare e torniamo indietro di circa 30 anni andando a riprendere quella compilation che fu ideata da Marco Corbelli di Atrax Morg. E sto parlando di From Sickness to Death, che naturalmente uscì all'epoca per la Slaughter Production. Questa sera ci ascolteremo due musicisti italiani, Aglio Die e Gerstein, che anche loro hanno scritto pagine importanti in questo tipo di scena. E di Aglio Die ci ascolteremo Lost Times. Per quanto riguarda Gerstein, The Sadness o A Big Liar. Thank you. passaggi dunque per questi due artisti italiani che ci rimandano in un ipotetico altrove, grazie alle loro note così plumbe e in sospensione. Erano Aglio Die sia Stefano Musso, un storico musicista italiano in attività dall'inizio degli anni 90, e Maurizio Pustianaz, ossia Gerstein. Saluto anche Enrico Marcheggiani di Blocco Nero, che ci riascolteremo in Disordere il prossimo lunedì. Peraltro Disordere ha saltato una puntata lo scorso due giorni fa, per l'appunto, perché eravamo impegnati tra virgolette in un concerto qui a Roma molto interessante che vedeva presenti Desideri Marginis, Rise on Death e Brighter Than Now, dunque la storica scena svedese che andava dal dark ambient fino all'industrial noise. Saluto Barbara Caridi, Marcello Buffetti di Monum. E Jean-Claude Berto dalla Val d'Aosta. Quindi abbiamo iniziato con questa vecchia compilation di più di 30 anni, che già ci faceva capire come già allora la scena italiana era assolutamente di valore, con tanti talenti in giro. E nel corso degli anni si è continuato nel solco di questa tradizione, fino ad arrivare ai giorni nostri, dove per esempio Sonologist di Raffaele Pezzella va a continuare appunto quel tipo di tradizione, nel solco sempre per esempio dell'ambient, ma anche del anche con gesti diciamo più sperimentali. E quindi andremo a parlare di Sonologist, che è impegnato in questo The Body of Horror, Music Inspired by the Cinema of David Cronenberg, quindi Come si può evincere, un album dedicato alle gesta cinematografiche di David Cronenberg, grande regista. Quindi 10 artisti si sono messi insieme e hanno fatto delle tracce di riferimento a questa arte. Sonologist ci delizierà con Dr. Benway's Narcotics Operation. Thank you. E vado anche a salutare Samuele Costa che ci sta ascoltando, credo dalla Sardegna. E anche il medico della peste e il Lemmy, saluto entrambi. Sta scorrendo intanto nel linguaggio sonoro di Sonologist una delle tracce più enigmatiche e metafisiche di questo artista napoletano, Raffaele Pezzella, che tutti ormai conoscono, che ha fondato la Nespresso Sounds Group e tante anche label parallele, compresa la 8 Tower Records, per la quale è uscito questo The Body o Horror dedicato a David Cronenberg. Ciao, lo tributiamo anche a Sera K.O. Fontane di Xaide, che dopo ci ascolteremo. Abbiamo iniziato con le frontiere dilatate del dark ambient di questi tre primi artisti italiani e andiamo in Slovenia e cambiamo decisamente suono, ci perderemo nel martial storico e monumentale dei Laibach, ancora una volta le prese con Iron Sky, The Coming Race, colonna sonora di questo film, album uscito nel 2023. Anche questa sera ci ascolteremo quattro episodi abbastanza brevi. Malcolm Flies, Vril Jobs and Vril Hitler, The Triceratops, Serious Race, Escape from Heart, Wolfgang's Disclosure e Zeit Zum Toten. Qualche minuto l'abbiamo passato anche questa sera in compagnia di Laibach, da Iron Sky, The Coming Race. E come tutti avrete notato la estrema versatilità di questo progetto sloveno, come si diceva e diceva, affermava soprattutto Antonio Zovet. Si partiva da Bach, ma si arrivava anche al progressive, tra le orme e gli Emerson, Lake & Palmer, fino a tornare alle consuete atmosfere, cose epiche, marziali, solenni. E in questo i Laibach sono maestri, ma d'altronde nella loro lunga carriera hanno abbracciato diverse concezioni musicali: l'elettronica, l'industrial, l'hard rock. Questo album, peraltro, conteneva anche Love Is Still Alive, uscita all'inizio dello scorso anno, che ci deliziò alquanto con i vari remix. Ebbene, contenuta anche proprio in questa colonna sonora, e ce l'andremo ad ascoltare con piacere nelle prossime settimane. E vado a risalutare Ernesti Panico Brusati, sempre in ottima forma. Marco Mascia di Progetto Sonoro, che ci ha raggiunto all'ascolto. E noi si va avanti, torniamo, diciamo, anche in Italia, perché no? Lei è Marta Zapparoli, che è italiana e si intuisce anche dal nome, ma da molti anni vive a Berlino, come tanti, diciamo, nostri connazionali, oltre che tanti musicisti. Allora, con l'ausilio della Dissipazio di Nicola Quiriconi è uscito questo lavoro, che in realtà è una lunga traccia di mezz'ora dal nome Interdimensional Generated Space, e quindi noi ce l'andremo ad ascoltare frazionata in tre movimenti. E questa sera è il turno, naturalmente, del primo. le incredibili frequenze tagliate e lavorate da parte di Marta Zapparoli. Un concentrato di adrenalina sonora contenuto in questo suo lavoro. Questa lunga traccia, che porta il nome di Interdimensional Generate Space, ce ne ascolteremo altri due movimenti, due lunghe frazioni nelle prossime settimane. Marta Zapparoli ha il possesso di tutti, diciamo, gli strumenti, gli aggeggi vari per produrre questi suoni, e lo fa attraverso la Dissipatio, etichetta a noi molto cara. Vi consiglio di andare proprio sul sito, sulla pagina Bandcamp della Dissipatio, perché ci sono veramente dei tesori da esplorare. Ma ne vedremo delle belle, giacché abbiamo molto materiale di questa label che ci godremo in diretta qui su Radio Onda Rossa. E quindi andiamo oltre. Sarà Capò Fontana e Dario Righi in Xaide, la loro nuova avventura sonica che va a seguire il progetto No Name. Rock evoluto, elettronica e noise per quanto riguarda questo duo toscano. L'esordio, diciamo, sulla lunga distanza si chiama Mille Anime, e questa sera ci ascolteremo Nina Nanna Estiva e Non So. Thank you. effettivamente sarà capo a Fontana Uber Alles, come leggo qui, ma anche Dario Righi, naturalmente, entrambi in Xaide. Electro noise alquanto granulare. Belli questi fendenti electro noise per questo album Mille Anime, uno dei più interessanti del 2024, che vede anche come ausilio al livello di mixaggio del buon Cristiano Bocci. .21:55, queste prove tecniche di trasmissione qui su Radio Onda Rossa. E al pari dei Mille Anime, un altro grosso lavoro di questo anno, di questo inizio del 2024, è sicuramente La Porta Ermetica. Si desedes non is esordio per questo mega progetto con Claudio Giammarini di Malato Ainsoff, Davis Granziera di Teatro Satanico, Adriano Vincenti di Macelleria Mobile di Mezzanotte e tanto altro. Vera e propria messa e rito liturgico in 8 tappe, che si conclude con Magia Sexualis, rito di conclusione.